Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Roberto Saccone, i condizionatori di Olympia Splendid come arredi per sentire aria di casa, di Anna Marino. La casa è un ambiente che deve creare una condizione di benessere fisico e psicologico. Per fare questo bisogna che sia studiata nei suoi dettagli in modo armonico e integrato in tutte le sue parti. Quando noi pensiamo ai condizionatori, pensiamo a qualche cosa quindi che deve essere integrato nell'ambito dell'arredamento. Qualche volta, al contrario, deve essere qualche cosa che svolge la sua funzione in modo sommesso, non particolarmente intrusivo, integrarsi perfettamente negli arredi che sono stati scelti e con lo stile che è stato scelto. Roberto Saccone deve alla famiglia la passione e l'esperienza imprenditoriale nel mondo della casa e dell'armonia degli ambienti. Per quest'oggi è alla guida di Olympia Splendid, gruppo industriale italiano nel settore della climatizzazione, del riscaldamento, del trattamento dell'aria e dei sistemi idronici. Settore in cui opera a 360 gradi, dalla progettazione e produzione fino alla commercializzazione di prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzate, con alta efficienza energetica e di design. Fondato nel 1956, il gruppo ha il proprio headquarter nello stabilimento di Cellatica nel Bresciano e il polo logistico per il mercato nazionale nello stabilimento di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia. Ai siti italiani si aggiungono le filiali commerciali di Shanghai, Madrid e Parigi. Tutto è partito dall'arredamento. Mio padre ha fatto per lunghi anni l'imprenditore nel settore appunto dell'arredamento. Io da ragazzo, da studente liceale, ho passato le estati a frequentare gli uffici tecnici e la produzione dell'azienda di mio padre. Credo di aver sviluppato già a quell'epoca una sensibilità a questo tipo di problema, per cui quando più tardi nella maturità ho iniziato la mia carriera di imprenditore, mi sono ritrovato ad occuparmi di un prodotto completamente diverso, ma l'ho voluto interpretare alla luce di quella cultura e di quel piacere che avevo coltivato in gioventù. In quell'epoca ho avuto modo anche di creare delle relazioni, sebbene all'epoca ero giovane, di creare delle relazioni col mondo del design. Per cui quando ho cominciato ad occuparmi di prodotti per la casa, in particolare per la climatizzazione, ho rispolverato queste conoscenze, ho lavorato sulla ricerca di designer che fossero non tanto specializzati nel prodotto climatizzatore, nel prodotto elettrodomestico di per sé, quanto avessero esperienze di design nel mondo dell'arredamento e della casa. L'attività imprenditoriale è iniziata in una piccola impresa in settori simili al core business attuale, ma un episodio illumina la scelta di un'attività più complessa dal punto di vista tecnologico. L'attività di questa azienda all'epoca era progettazione e produzione per conto terzi di piccoli elettrodomestici. In particolare producevamo asciugacapelli, ventilatori, termoventilatori. Per un paio d'anni le cose si sono sviluppate in modo positivo. Io ho cominciato a fare le esperienze di responsabilità globale, fino a che un'occasione in cui con mia moglie eravamo al supermercato a far spesa, e in un fustino, non ricordo più che marca fosse, veniva regalato un asciugacapelli. Di fronte a questa cosa sono rimasto stupito, perché se gli oggetti della mia produzione erano regalati insieme al prodotto più povero che esista, perché il sapone costa di più l'imballo del contenuto, significava che veramente mi stavo impegnando su produzioni con contenuti tecnologici e con una banalizzazione preoccupante, assoluta. Per battere la concorrenza di paesi orientali, Taiwan e Hong Kong, prima della Cina, Roberto Saccone inizia una doppia sfida, una tecnologica e una di mercato. Olympia Splendid nasce col nome Olympia e col marchio Splendid. Era un modo che all'epoca era abbastanza diffuso, l'azienda aveva un nome e operava con un marchio diverso dal nome. questo è contrario a tutti i canoni della comunicazione, ma allora era frequente. Era stata fondata dal cavaliere Viglio Marchesi a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, una zona particolarmente ricca di competenze nell'ambito del cucine delle stufe. In particolare Olympia Splendid produceva cucine e stufe a legna e a carbone, prodotto che si è evoluto nel tempo, che ha avuto un grandissimo sviluppo all'epoca della prima crisi petrolifera, che ha indotto l'azienda a investimenti importanti e eccessivamente impegnativi nel momento in cui, finita questa crisi, il mercato è precipitato. Quell'epoca gli eredi del cavalier Marchesi avevano iniziato a pensare anche loro a una diversificazione, avevano acquisito un brevetto e cominciato a sviluppare un piccolo condizionatore portatile. Io ero venuto a conoscenza di questa realtà, che nel frattempo, data la crisi, era anche in qualche difficoltà da un punto di vista finanziario. Alcuni segnali indicavano che la climatizzazione aveva una prospettiva di sviluppo veramente importante. Ricordo un episodio, leggendo una rivista specializzata, lessi che Toyota aveva lanciato su un utilitario un climatizzatore. Poteva diventare un prodotto popolare, un prodotto di grande diffusione. L'export e i viaggi hanno portato all'arte, soprattutto grazie allo studio dell'estetica. Parlando di Italia, i nostri portatili sono nei Musei Vaticani, il nostro unico climatizzatore senza unità esterna equipaggia uffici al Quirinale piuttosto che a Palazzo Madama. Roma, che è ricca di palazzi storici, piena di realizzazioni nostre. All'estero abbiamo realizzato alberghi in Australia piuttosto che la biblioteca di Santiago del Cile. Le sfide sono anche l'impatto ambientale e i consumi di energia, dai materiali riciclabili al rumore. Scelte verdi e anti-inquinamento che fanno fatturato e hanno ritorni perché il consumatore è consapevole. Le linee strategiche tecnologiche di maggior impegno nostro sono esattamente in questa direzione. Da un lato gli aspetti dell'efficienza energetica e quindi della riduzione dei consumi, dall'altro il rumore. È impensabile che un prodotto destinato al comfort lo determini da un punto di vista della temperatura e dell'umidità, ma non lo sia in realtà per quanto riguarda l'aspetto del rumore. I nostri centri di ricerca sono molto impegnati sugli aspetti dei circuiti frigoriferi, che devono essere progettati e concepiti in modo da garantire la massima efficienza possibile da un lato, e tutta la parte aeraulica, che garantisce livelli di rumorosità accettabili. Scelte che hanno la propria radice, secondo Roberto Saccone, nella serietà bresciana, nel territorio. Io sono orgogliosamente bresciano, quindi non posso che esaltarne le qualità. Il bresciano è una persona di poche parole, forse neanche particolarmente espansiva, però è una persona normalmente tenace, orgogliosa, e credo che queste siano caratteristiche che io ho portato nelle mie attività. Insomma, io penso di essere un discreto imprenditore, un buon imprenditore in un mondo dove per emergere bisogna essere degli eccellenti imprenditori. Probabilmente quello che mi manca ad essere eccellente ce lo metto appunto col coraggio, l'orgoglio, la tenacia, che è sicuramente una dote dei bresciani. E il galetto bresciano accompagna da sempre la vita di Olympia Splendid. Nel proverbio recitato da Roberto Saccone, una sorpresa per chi si occupa di climatizzare l'aria. Il dialetto bresciano, come molti dialetti, ha delle sintesi efficacissime. Quanghe denac, bisogna andare. Cioè, quando bisogna fare, bisogna fare. Una frase ricorrente in questi ultimi tempi, dove il mercato ha ripreso e il lavoro è tanto e fortunatamente siamo molto impegnati, a qualche collaboratore che si lamenta del tanto lavoro dico: messi da che tosser. Cioè, meglio sudare che tossire. E avendo tossito per molto tempo all'epoca delle situazioni di crisi, siamo molto contenti di sudare. E ora, dalla storia di Olympia Splendid e dalle intuizioni che anticipano i progressi, passiamo alla storia di una startup che è diventata una scale-up, Ennova. Abbiamo conosciuto questa realtà al convegno dei giovani imprenditori torinesi Italy Why Not, fare impresa nel bel paese, giovedì 3 dicembre 2015. E anche per Fiorenzo Codognotto tutto è nato da un'intuizione, l'assistente digitale. Le idee devono nascere nel momento migliore dell'anno, cioè nella primavera, e quindi è nata nella primavera del 2010 l'idea, diciamo, di costruire una piattaforma dei servizi innovativi a supporto degli apparati digitali, in particolare del mondo mobile, insomma, quindi un tema che era ancora tutto da capire e da interpretare in termini di dimensioni ed esigenze, però era evidente che in questo momento nessuno stava preoccupandosi di realizzare servizi e piattaforme per facilitarne poi l'uso nel futuro. Quindi questa è stata la partenza dell'idea. Quindi lì era un momento da pionieri fondamentalmente, però poi dopo avete dovuto dare una veste a questa idea. Che cos'è nato? Ci siamo focalizzati sull'innovazione di processo e quindi non solo sulla tecnologia, ma anche proprio nel realizzare, diciamo, i servizi per poter, diciamo, supportare il nostro cliente. Ci sono stati ovviamente mesi in cui abbiamo provato, sperimentato, cercato di capire come il mercato potesse averne bisogno, potesse reagire. Nel tempo è nata poi l'idea di realizzare un concetto di assistenza digitale, cioè un assistente sempre a disposizione in qualunque momento, in qualunque luogo tu ti possa trovare. Quindi il concetto è stato quello di realizzare supporto non di presenza ma da remoto, e quindi poterne usufruire in qualunque momento, in qualunque luogo. Insomma. Ha un nome questo assistente digitale, questo assistente che ci segue come, diciamo, un avatar nelle nostre evoluzioni per gli smartphone e tutti i device. Siamo partiti con un concetto di piattaforma di SOS digital, SOS smartphone, eccetera, per poi migrare, ed è nata poi invece la figura dell'assistente dell'angelo custode, insomma, e che abbiamo poi chiamato Skillo. Da Skills. Da Skillo, anche questi concetti napoletani di schizzo, magari di quello che è veloce, di quello che è simpatico, di quello che comunque ti aiuta senza metterti a soggezione e può aiutare il giovane, il meno giovane, l'anziano. Ecco, dietro questa figura c'è una montagna di lavoro e tanti anni, insomma, di studio, di prove di prodotti, eccetera. Chi vi ha aiutato? Primo aiuto ci è venuto dal luogo che abbiamo scelto fin dalle origini, che è stato l'incubatore del Politecnico di Torino, e quindi questo ovviamente ci ha messo in relazione col mondo accademico, con l'innovazione, dal quale fra l'altro abbiamo attinto a piene mani, dove dalle prime tre persone con cui si è fatta la startup ad oggi abbiamo fatto transitare dalle aule del Politecnico 45 ingegneri, insomma, che fanno parte della nostra squadra di innovazione e ricerca, fra l'altro su un numero complessivo oggi di oltre 500 unità operative del nostro gruppo. E di recente, poi lo scorso anno, abbiamo anche avuto un aiuto finanziario, nel senso che un fondo di investimento ha scelto di investire nella nostra iniziativa, e questo ovviamente ci ha dato risorse, è entrato in aumento di capitale portandoci risorse fresche per fare adesso il vero passo verso, diciamo, da startup ad industria. Questa e altre storie in anteprima e anche in versione più lunga potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, sulla pagina programma di Voci d'Impresa, curiosando nella sezione extra, dove potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.